Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, avete riposato bene? Allora pronti per una nuova giornata e anche per una nuova puntata di Obiettivo Salute Risveglio, un appuntamento quotidiano in cui con l'aiuto di tanti esperti impariamo ad investire nella nostra salute e nel nostro benessere. Oggi con noi il professor Luca Levrini, odontoiatra, docente all'Università degli Studi dell'Insubria. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Professor Levrini, perché il nostro sorriso con gli anni tende un po' a spegnersi, a diventare giallino? Ma i motivi sostanzialmente sono due, che poi rimandano a un concetto che deve essere base per chiunque in qualche modo vorrebbe i denti più bianchi. Una causa potrebbe essere delle macchie che vanno sopra lo smalto, per cui il tè, il fumo, la liquirizia, ma anche preparati cose belle, i mirtilli, le barbabietole, colorano superficialmente i denti, oppure anche la clorexidina, che è questo antibatterico straordinario per la bocca. Un'altra causa di colore che in qualche modo può peggiorare, di fattore che può peggiorare il colore del dente, è intrinseco nello smalto, cioè dovuto proprio allo smalto. Lo smalto nel tempo si in qualche modo assottiglia. E quindi il sorriso di una ragazza di 20 anni, della stessa donna a 80 anni, non potrà mai essere lo stesso, perché lo smalto, che è sostanzialmente di come vetro, si assottiglia ed espone la parte più profonda, che purtroppo è marroncina, che si chiama dentina. E quindi è un effetto naturale il fatto che col tempo purtroppo i denti diventino un pochino più gialli. E poi lo smalto non è in qualche modo impenetrabile, viene penetrato dalle sostanze che lo pigmentano in profondità. È importante fare questa distinzione tra pigmentazione che è fuori e caratteristica dello smalto, perché quando si parla di voler denti più bianchi bisogna distinguere lo sbiancamento dallo smacchiamento dei denti. Smacchiare il dente significa proprio togliere le macchie che ci sono in superficie, mentre sbiancare il dente significa dare un pochino più di colore bianco al dente. Ma lo sbiancamento, professor Levrini, può danneggiare lo smalto? No, nel senso che tutti i prodotti che sbiancano i denti, quindi hanno l'ambizione di rendere più bianco il dente, non danneggiano assolutamente lo smalto. Sono dei prodotti acidi, ma come acido potrebbe essere lo yogurt, potrebbe essere il prosecco, il limone, quindi è un acido che sì, in qualche modo viene appoggiato sullo smalto, però in maniera talmente temporalmente ridotta che non va a danneggiarlo assolutamente, e deve essere acido, perché è solo i principi acidi, che sono il perossido di idrogeno, il perossido di carbamide, che in qualche modo liberano quell'ossigeno necessario proprio per andare a disgregare quelle sostanze che hanno colorato il dente in profondità. La liberazione di ossigeno è importante, è essenziale, e viene fatta quasi esclusivamente solo da questi due prodotti, perossido di idrogeno e perossido di carbamide, che devono essere utilizzati o dall'igienista dentale o dall'odontoiatra, nel senso che la normativa... Quindi lei mi sta parlando di trattamenti che io posso fare dal dentista, o insomma seduta in poltrona, mentre trattamenti che posso fare come una sorta di manutenzione, di prevenzione a casa, cosa ho a disposizione? Dei dentifrici sbiancanti, come funzionano? Sì, la manutenzione deve partire proprio dalla non pigmentazione, quindi spazzolarsi i denti con un dentifricio elettrico molto efficace, che rimuove molto bene la placca che poi deposita il colore sul dente, è il primo ingrediente. Certo, partendo da però un dente già bianco, nel senso che è difficile da casa rimuovere le pigmentazioni che si sfoggiano sullo smalto. Quindi il mio suggerimento comunque è smacchiare il dente, poi per mantenerlo utilizzare un ottimo spazzolino elettrico che disgrega e tiene lucido il dente senza danneggiarlo. Ha parlato di dentifrici. Il mondo dei dentifrici è un argomento, diciamo, bipolare, nel senso che ci sono i cosiddetti dentifrici ottici, per esempio quelli colorati di blu, che secondo me hanno una buona efficacia, nel senso che il blu contrasta il giallo, e quindi possono essere utilizzati tranquillamente i dentifrici ottici, per esempio quello che è colorato di blu. Diverso invece è il discorso dei dentifrici cosiddetti abrasivi, che hanno l'ambizione di rimuovere le macchie, però hanno anche il difetto di, unitamente a rimuovere le macchie, in qualche modo a danneggiare lo smalto, renderlo più poroso e quindi più, in qualche modo, più fragile, più vulnerabile. No? Più predisposto alle pigmentazioni, quindi un gatto che si morde la coda. Come faccio a capire se un dentifricio è abrasivo o non abrasivo? Come al solito, ricordiamoci delle etichette che sono fondamentali, c'è un indice che si chiama RDA, che è l'indice di abrasività dei dentifrici. Io suggerisco sempre un dato di 100, nel senso che 100 è un buon dentifricio, un po' abrade, ma semplicemente per pulire, ma non danneggia. Andare sopra i 120 di RDA significa comunque sì rimuovere le macchie, ma anche rimuovere anche un po' dello smalto, e lo smalto purtroppo è preziosissimo, una volta perso purtroppo non si riforma più e devo in qualche modo preservarlo, non solo per tutelare il dente, ma come ho detto prima, per rendere bianco il dente, perché più smalto c'è e più il dente rimane bianco. Lo smalto di un giovane è bello ed è luminoso proprio perché c'ha tantissimo smalto, che poi si perde nel corso della vita, nel corso del tempo. Professor Levrini, lei ha parlato anche di colluttori, ha citato la clorexidina, che possono in qualche modo danneggiare, o meglio spegnere un po' il nostro sorriso, diciamo così. Quali altre sostanze hanno questa caratteristica? Beh, io non vorrei essere retorico, ma devo necessariamente partire dallo zucchero, che quindi lo zucchero che in qualche modo va a alimentare i batteri che a loro volta danneggiano lo smalto. E quindi tutti gli alimenti che contengono zuccheri semplici vanno a danneggiare lo smalto. La carie, che è per antonomasia la patologia dello smalto più frequente, è una malattia comportamentale dovuta al nostro comportamento. E quindi quando lei mi chiede quali altri fattori vanno a incidere sulla salute dello smalto, sicuramente il nostro comportamento, che con una cattiva alimentazione, con una cattiva igiene orale, possono rendere lo smalto più debole. Al riguardo mi preme sottolinearlo, perché è un concetto importante, è importante lavare i denti assolutamente 3 volte al giorno, possibilmente però almeno 30-40 minuti dal pasto. Perché? Perché dopo aver mangiato lo nostro smalto è più debole in virtù del fatto che la saliva è un pochino più acida. Ora, questa debolezza dello smalto purtroppo, se aggredita da uno spazzolamento dei denti, magari una persona che vuole lavarsi i denti in modo molto efficace, purtroppo va a rimuovere lo smalto. Quindi bisogna aspettare che lo smalto riassuma quella magica consistenza e robustezza che si ha dopo 30-40 minuti dall'aver finito un pasto. È importante quindi aspettare un pochino, perché sennò si toglie un pochino di smalto e quindi è negativa come cosa, anche per lo sbiancamento dei denti. Professore, a proposito di spazzolamento, occhio al nostro spazzolino, quando è tempo di cambiarlo? Allora, gli spazzolini vanno cambiati a seconda di con quale forza e con quale vigore io li utilizzo. Se io vedo le setole che si piegano dello spazzolino, i casi sono due: o uno spazzolino che uso da 6 mesi o uno spazzolino che utilizzo con troppo vigore. Generalmente io consiglio di cambiare lo spazzolino ogni 4 mesi, perché di fatto è il periodo entro il quale le setole iniziano a piegarsi. Un altro suggerimento che si può dare è magari utilizzare degli spazzolini elettrici dotati di quei controlli di pressione, che sono molto utili, perché di fatto, come vi dicevo, il logorio dello spazzolino è dato anche dalla pressione che io esercito, che deve essere assolutamente calibrata, non deve essere esagerata, perché se si piegano le setole, la parte che in qualche modo va a pulire il dente è quella piegata, e ciò non è sicuramente efficace per un corretto spazzolamento. Quindi ogni quanto cambiare, in 4-6 mesi, non oltre, perché oltre 6 mesi lo spazzolino necessita di essere sostituito. Professor Levrini, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata, tanti sorrisi, belli. Grazie a voi e buona estate a tutti. Buona estate, ringrazio Peter Bescapen, regia, la parte tecnica, Lorenzo Nespoli in assistenza, Laura Vanossi in redazione. Come sempre vi do appuntamento, noi dopo le 12, dopo il GR delle 12, per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Vi aspetto, non mancate. Una buona giornata da Nicoletta.